Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. One nil up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Tra meno di un mese è Natale, ancora non si vede la neve alle nostre latitudini. Beh, dopotutto potremmo anche abituarci all'idea di un Natale grigio, di un Natale che non sia bianco. Ma il discorso si complica e diventa più delicato per i popoli nordici. Cosa sarebbe la Finlandia, la Norvegia, il paese delle renne, il paese di Babbo Natale senza i ghiacci e senza la neve? Il riscaldamento globale sta cambiando non solo l'ambiente in cui viviamo, ma anche il nostro paesaggio interiore, il nostro immaginario e soprattutto l'immaginario e la psiche dei popoli nordici abituati a vivere tra i ghiacci. Dell'impatto psicologico dei cambiamenti climatici parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto sentiamo cosa prevede il sommario di oggi. Svizzera. Cade il mito della Scandinavia impenetrabile. Due mercantili hanno attraversato il passaggio a nord-est senza un rompighiaccio. Gli abitanti della penisola sono spaesati. America. Le Corbusier? Un dittatore. Svelato il volto tirannico del celebre architetto. Kuwait. La voglia di partecipazione politica cresce nell'Emirato, soprattutto tra i giovani. Sudafrica. Qual è la differenza tra uomo e donna? Cosa significa essere maschio? Il caso della campionessa Caster Semenya riapre la discussione. Inghilterra. Belli e vincenti. Due ricerche sostengono che gli sportivi hanno più probabilità di vincere se hanno un look attraente. Francia. Innamoramento. Gelosia. Astinenza. Un libro racconta le origini della sessualità e spiega perché gli animali sono molto meno pudichi degli uomini. L'emergenza del riscaldamento globale non riguarda soltanto i climatologi, ma comincia a interessare e a preoccupare anche gli psicoanalisti. È quello che racconta lo scrittore danese Jens Christian Grøndahl sul giornale svizzero La Neue Zürcher Zeitung. Esiste in pratica una sindrome da riscaldamento globale che riguarda soprattutto i popoli nordici e questa sindrome si è manifestata per la prima volta quest'estate quando due mercantili hanno segnato un fatto storico perché hanno attraversato per la prima volta il passaggio a nord-est, cioè la rotta che collega il mare del nord all'oceano Pacifico passando dalla Siberia senza aiuto di un rompighiaccio. È la prima volta nella storia che questo accade ed è chiaramente un risultato dello scioglimento dei ghiacci polari. Secondo Grøndahl, questo evento ha scatenato un'inquietudine esistenziale tra gli abitanti della penisola scandinava, perché per chi da sempre era abituato a vivere con una specie di barriera di ghiaccio impenetrabile alle spalle, scoprire che il passaggio a nord-est adesso è facilmente attraversabile è un trauma simile a quello di trovarsi improvvisamente con una parete di casa crollata e aperta alle intemperie. L'evento ha significato in pratica per gli scandinavi la deflorazione di un mito, quello della impenetrabilità del grande nord. E in pratica, scrive Grøndahl, con uno sbigottimento misto a un senso di spaesamento, tutti ora, svedesi, norvegesi, finlandesi, si sono dovuti rendere conto che la terra è davvero rotonda. Ma intanto ci ha raggiunto un ospite al telefono, lo salutiamo, Diego Marani. Grazie di essere qui con noi. Diego Marani, Sì, è scrittore, interprete a Bruxelles e anche collaboratore del supplemento della Domenica del Sole 24 Ore, il suo più recente romanzo L'amico delle donne, pubblicato da Bompiani, ma è soprattutto qui con noi perché è appassionato di paesi nordici, no? Nei quali ha ambientato alcuni suoi romanzi, ricordiamo La nuova grammatica finlandese e L'ultimo dei Vostiachi. A proposito, dice Vostiachi o Vostiachi? Si dice come si vuole perché comunque non esisto. Appunto, ecco. Ma Marani, ecco, mi spieghi perché lei è stato spesso a quelle latitudini? Che cosa l'attrae di quelle culture in particolare? Beh, quel che mi spinse così a nord furono essenzialmente ragioni professionali. Poi però scoprii un mondo che ha un profondo interesse, che è particolare e diverso dal nostro. Anche perché non è poi solo scandinavo, la Finlandia non è Scandinavia e ci tiene a fare la differenza. Per i finlandesi in particolare il ghiaccio è sacro e quando arriva il ghiaccio, diciamo, è un buon segno, loro lo aspettano ogni inverno, perché è vero, sì, è una protezione, ma è anche per certi versi un fatto di collegamento, sì, può essere che sfonda un muro, come lei dice, quando non c'è più nel mare Artico, però durante l'inverno in Finlandia il ghiaccio nei laghi permette di cambiare il corso alle strade. Le strade in Finlandia d'inverno cambiano perché invece e passano di nei laghi. I laghi passano nei laghi, vengono segnate da dei picchetti. E quindi tutto cambia quando arriva il ghiaccio, per un certo verso i collegamenti sono più semplici, si può attraversare il lago invece di farci il giro. Ecco, adesso... Una cosa che mi colpì soprattutto sì. dell'aspetto geografico di questi paesi, quando giravo per traghetti e porti della costa norvegese, furono le loro carte geografiche, la mappa d'Europa che loro hanno, il punto più meridionale è la costa dell'Estonia, mentre da noi il punto più meridionale è la costa della Tunisia. Certo. E sopra però c'era scritto carta d'Europa. E quindi ecco, quando si parla d'Europa, anche questo bisognerebbe chiedersi di quale stiamo parlando, perché la loro è tutt'altro. Un'ottica rovesciata, ecco. Ma parliamo adesso di clima. Si sente dire spesso che i siberiani, per esempio, sono contenti in qualche maniera del riscaldamento globale, perché potranno un giorno tornare a coltivare il grano nella steppa e a pascolare le mandrie. Ma qui, a quanto pare, come scrive Gröndal, c'è invece un aspetto psicologico negativo, cioè una sindrome da effetto serra che invece genera semmai depressione, insicurezza. Ecco, qual è secondo lei il sentimento prevalente in queste popolazioni rispetto a questo cambiamento del clima? Prima parlava dei laghi ghiacciati che facilitano le comunicazioni. Decisamente l'aspetto del riscaldamento climatico preoccupa questi paesi. Ormai in Scandinavia, in Finlandia, è diventato un incubo non avere l'inverno, il Natale bianco. Il Natale bianco è sacro. Quando non viene la neve in questi paesi, ormai è comune, anche a dicembre non nevica, sì, fortemente diventano depressi, perché intanto la neve è rassicurante, c'è sempre stata, ce l'hanno sempre avuta, ma poi perché la neve in queste stagioni porta luce. Certo. Dal cielo non ne viene, la neve per terra riflette la luna, riflette le aurore boreali e quindi dà luce al paesaggio. Ecco, la mancanza di neve è la peggior maledizione che possa capitare ai nordici nella stagione invernale. È una specie di aura, insomma, che si dissolve, che scompare, insomma, no? Una magia del nord. È una protezione, è veramente una protezione. Una volta nel Medioevo il mare fra Finlandia e Estonia ghiacciava, si poteva attraversare il golfo in slitta, era attraversabile. Queste molto tempo fa questo succedeva, infatti le barzellette nordiche dicono che gli estoni sono finlandesi ubriachi che sono passati dall'altra parte e non sono più riusciti a tornare indietro. Il ghiaccio è rassicurante per i finlandesi e i finlandesi hanno addirittura un gruppo di cantanti moderni che canta sulle lastre di ghiaccio alla deriva nel golfo di Oulu, nel mare di Ostrobotnia. Quindi ecco, il ghiaccio c'entra dappertutto per questi paesi, è un elemento importante del loro paesaggio, un po' come insomma la palma nel sud, certo, deve essere, fa parte del loro immaginario. Anche dal punto di vista letterario, pensiamo la citazione così, è quasi banale, ma insomma il famoso romanzo di Peter Hoeg, Senso di smilla per la neve, anche se lui è danese, quindi sì, siamo... Certo, certo. È un elemento centrale... Ma è un elemento anche narrativo, ecco, anche sì. Selma Lagerlöf, quando le grandi corse nella neve della saga di Gösta Berling, senza neve, senza ghiaccio, senza slitta, tutto questo non potrebbe esistere. Le storie nordiche non esisterebbero senza il ghiaccio. Anche sì. Loro hanno il mito di un'epica era in cui si coltivava la vigna in Finlandia, e del resto sembra scientificamente che questo sia stato vero. Certo, anche in Inghilterra. Libro, certo. Mm-hmm. C'è un bel libro a questo proposito che è Omero nel Baltico di Felice Vinci, che spiega in un modo forse così sbarazzino, ma che incontra ormai l'appoggio di molti scienziati, spiega come il mito omerico venga dal Baltico, in realtà venga dal nord, e sia stato portato nel bacino mediterraneo dalle migrazioni dei vichinghi attraverso i fiumi russi. Grazie a Diego Marani e grazie anche per questo consiglio di lettura. Grazie a lei e a presto. E ci spostiamo in Kuwait. Sul quotidiano Al Watan apprendiamo che in questo piccolo stato che fu al centro della prima guerra del Golfo sta rinascendo la voglia di fare politica, soprattutto tra le giovani generazioni. Questa rinnovata partecipazione si riflette in un aumento delle iscrizioni alle organizzazioni politiche, universitarie, ai partiti, ed è stato in particolare incentivato da una serie di riforme che sono state fatte dal governo kuwaitiano. Forse per capire il valore, l'importanza della politica e della partecipazione democratica, bisogna essere stati attaccati da Saddam Hussein. L'architetto totalitario è il titolo di un articolo di Theodore Dalrymple sul settimanale americano City, in cui il mito dell'architettura del Novecento viene praticamente fatto a pezzi e dipinto come una specie di dittatore. La sua visione dell'architettura, sostiene il giornalista americano, era una visione appunto totalitaria che mirava a fare di tutte le città del mondo, Oslo, Mosca, Berlino, Porto Said o Buenos Aires, una realtà totalmente uniforme in base a quelli che erano i suoi canoni estetici. Certo, sarà stato magari anche totalitario Le Corbusier, ma non è riuscito poi a fare molti danni. Se le nostre città sono così brutte e invivibili, non è certo colpa di Le Corbusier. La finestra sul cortile. Come si distingue un uomo da una donna? La domanda potrebbe apparire abbastanza bizzarra, ma in realtà, se si pensa al caso di una atleta molto importante, molto famosa come Caster Semenya, che ha vinto gli 800 metri ai mondiali di Berlino, allora la domanda ha un senso, perché effettivamente sulla sua identità sessuale molto si è discusso e molto si continua a discutere. C'è un lungo articolo sul New Yorker firmato da Ariel Levy intitolato Either Or, in cui appunto si ripercorre un po' il caso di questa atleta e si discute insomma su quali sono le ricerche intorno alle differenze tra i sessi. L'autore dell'articolo è andato fino a Limpopo, come si chiama la zona dove è nata l'atleta sudafricana, una zona molto povera, e in uno di questi villaggi è nata appunto Caster Semenya, e già prima ancora di iscriversi al college a Pretoria si era distinta per la sua straordinaria prestanza atletica. Dopodiché a Berlino, come sappiamo, ha vinto la medaglia d'oro degli 800 metri battendo il record mondiale per ben 2 secondi e mezzo, ma subito, prima ancora che vincesse la medaglia d'oro, già nelle semifinali si era aperta la polemica con i reporter che la interpellavano mettendo Viola gravemente in imbarazzo, dicendo: ma è vero che lei era un uomo? Naturalmente questo problema è stato sollevato all'istituzione preposta, che è l'International Athletic Federation, che subito ha cercato, insomma, in qualche maniera di chiarire la questione, ma ha oscillato e ancora non è arrivata ad una decisione precisa. L'autore dell'articolo cita anche un'email del direttore dell'istituzione internazionale, Nick Davis, che dice nei blog sudafricani si parla di questa atleta come di un ermafrodito. Dopodiché, appunto, qui si parla in questo articolo, anche si ricostruisce un po' la storia della medicina in questo campo e di quali erano i test che si facevano prima del 68, che erano molto brutali, perché in pratica si guardava in mezzo alle gambe degli atleti per capire se erano maschi o femmine. Dopodiché si è arrivati a test più sofisticati che riguardano invece la genetica e i cromosomi. Ma anche qui l'incertezza ancora regna sovrana, per cui c'è, diciamo, come una terra di mezzo tra i sessi che deve ancora essere indagata e che soprattutto in campo atletico pone delle questioni molto delicate. Ma intanto diamo il benvenuto alla nostra ospite, Vladimir Luxuria. Ciao, che salutiamo, benvenuta alla Finestra sul Cortile. Tutti conoscete Vladimir Luxuria, ex parlamentare, personaggio televisivo e anche scrittrice. Un suo romanzo, Le favole non dette, è stato pubblicato recentemente da Bompiani. Soprattutto lei si definisce transgender ed è stata sempre promotrice di battaglie in favore dei diritti delle persone transgender. Vladimir Luxuria, le faccio prima una domanda: ma lei è sportiva? Fa qualche qualche sport? Io faccio 3 ore alla settimana in una palestra che mi sono ricavata da una mia stanzetta per non perdere pezzi, ecco, questo è il mio sport. Per mantenersi in forma, insomma. Sì. Ecco, ma lei ha letto questo articolo del New Yorker, no? Mi pare che nonostante i progressi della medicina, insomma, ci sono ancora molte incertezze sulla definizione di quelli che sono i veri confini tra i sessi. Che cosa significa, ecco, essere transgender e come si potrebbe riflettere anche questa categoria nel, per esempio, nelle competizioni sportive? Io voglio continuare a credere in uno sport sano, onesto, pulito e soprattutto aperto a tutte e tutti. Non bisogna dimenticare che lo sport fino al 1867 è stata una prerogativa solo maschile. Certo. Fu solo grazie a un istruttore svizzero che si chiama Rudolf Obermann che si è potuta avere la prima squadra in rosa preparatoria, pensate, proprio in Italia, a Torino. Cioè, nel senso che anche per esempio sulla box, fino addirittura agli anni 90, si considerava che una donna in quanto donna non potesse essere una persona che poteva fare box. Allora io credo che, così come si sta tentando e ci si sta riuscendo in qualche modo a superare il pregiudizio per genere per quello che riguarda lo sport, adesso bisogna superare un altro pregiudizio, che è quello dell'identità di genere, cioè di persone che si identificano totalmente o parzialmente nel sesso anagrafico opposto rispetto a quello di nascita. Tra l'altro il caso di Caster Semenya non è il primo, ci sono già stati altri casi Come di no? persone transgender che hanno avuto, diciamo così, competizione nelle gare. Ecco, il Comitato Olimpico Internazionale già alle Olimpiadi di Atene del 2004 ha sancito che una persona, se ha rettificato i genitali, può competere nelle gare olimpioniche. Il problema però è per chi non ha rettificato i genitali, cioè quelle persone transgender, appunto, che stanno transitando. Sì, che non sono, ecco, facciamo la distinzione tra transgender e transessuale, no? Perché è fondamentale forse anche per i nostri ascoltatori. La differenza sostanziale, in realtà, più che transgender e transessuale, è tra, diciamo così, persona che ha rettificato i genitali, che io posso definire neodonna o neouomo, e persone transgender, che quindi o stanno transitando oppure decidono di rimanere con la compresenza di caratteristiche sessuali, primarie, esatto, sessuali maschili e femminili. Certo. E in questo caso si pone il problema, perché è una questione molto delicata, perché ovviamente si tratta del rapporto che c'è tra massa muscolare e massa grassa, che è diverso da uomo a donna, dalla quantità di testosterone e estrogeni. Quindi è purtroppo spesso chi è in gara con te potrebbe usare, diciamo così, il fatto che tu sei trans anche per screditare una vittoria, come nel caso appunto volte, esatto. Esatto. Ma forse bisognerebbe allora fare delle gare per transgender, cioè mettere una categoria speciale. No, io credo che invece basterebbe un buon senso, basterebbe che diciamo così anche la federazione sportiva, la IAF, la Federazione Atletica, esatto, Internazionale, possa valutare ovviamente la persona. Io credo che una persona dovrebbe gareggiare nella sezione del sesso di elezione, cioè se una persona sta transitando verso il femminile, a mio avviso dovrebbe correre con le donne, dovrebbe gareggiare insieme alle donne, ecco, e viceversa. Bene, noi ringraziamo Vladimir Luxuria e a presto. Grazie a voi. Belli e vincenti, a quanto pare l'aspetto fisico, il look particolarmente attraente, è un must anche nel campo delle competizioni sportive, o almeno così sostiene il New Scientist, che ha fatto un sondaggio tra i suoi lettori, tra i frequentatori del suo sito Twitter, per stabilire se i tennisti più famosi d'Inghilterra e del mondo fossero, oltre che bravi, anche belli. E in effetti una correlazione pare che sia stata trovata. Quelli, diciamo, che si classificano meglio nelle gare internazionali sono spesso anche quelli più belli e più apprezzati dal pubblico per il loro aspetto fisico. Speriamo che adesso la bellezza non diventi un criterio di discriminazione nelle gare internazionali, altrimenti un atleta come Caster Semenya verrebbe esclusa anche in quanto uomo. E a proposito di sesso, un libro appena uscito in Francia da Fayard, curato da Pierre-Henri Gouillon, Aux origines de la sexualité, alle origini della sessualità, racconta appunto l'esistenza dei sessi nel regno animale. Quindi e qui si fa tutta la storia naturale e si fanno tutte una serie di esemplificazioni, insomma, sui comportamenti sessuali delle diverse specie. In particolare si nota che la differenza fondamentale, così scrive un articolo sull'Express, tra l'uomo e gli altri animali è il fatto che noi il sesso lo pratichiamo non sotto lo sguardo degli altri, preferibilmente. Certo, a volte lo facciamo sotto l'obiettivo di un cellulare. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.